Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, in questo venerdì. Lo so che lo dici sempre, è venerdì, però io oggi pomeriggio sono qui, domani mattina pure qui, è venerdì, però insomma, tutte le settimane facciamo questo teatrino. No, perché tu mi pizzichi, giustamente, io ci rimango ma un no, po'. Ma no, io sono proprio felice per me, ma non è che no, mi ti pizzico. Infatti hai ragione, figura. Allora, oggi è il protettore degli orfani, delle vedove e dei poveri, cioè San Vincenzo, spagnolo e poi traslato alla cattedrale di Lisbona, è il santo patrono di Lisbona. E poi tra le altre è anche la patrona dei malati, questa mia cara parecchio, Sant'Irene. E poi tra gli altri con nome un po' strambo dei santi di oggi invece Sant'Anastasio di Asti, quindi lo dico da piemontese, non ho mai conosciuto un Anastasio di nome. E soprattutto invece quando nonostante ero piccolo sia di Asti c'era Anastasio della Juventus, sì, vabbè, che non Pietruzzo, sopportavo a dire la verità, però ecco. E quindi questi sono i santi di oggi. Oggi, non abbiamo punti per la politica. No, va bene, però cercavo un santo per Verdini, salvatore del paese, San ma non l'ho trovato. Chissà, Denis. 800 24 00 24. Dai, vi voglio chiedere qualcosa di politica. Questa stampella verdiniana, che ne pensate? Perché io sto riflettendo su quello che l'ascoltatore ci ha detto ieri chiamandoci. Che ha detto: ma guardate che secondo me Renzi da 3 anni è d'accordo con Berlusconi quando andò ad Arcore, vi ricordate? Non era neanche premier. Per cui addirittura sarebbe finta la lite Berlusconi-Verdini per mettere Verdini lì a fare il partito della nazione. Vai avanti tu, intanto un pochino governichiamo. Non credo tanto al fatto che per fare il partito della nazione, credo però che Verdini non abbia mosso passo senza che Berlusconi comunque dicesse fallo. Cioè, Berlusconi avere un canale attraverso il quale dice comunque come vedi alcuni amici sono poi responsabili e ti reggono, caro Renzi, serve a dire non al partito della nazione. Renzi, ricordati gli amici, questo è il punto vero. Tutti i giorni Berlusconi dice questo premier è incapace, questo premier no, questo premier su, questo premier giù. Ma chi crede a Berlusconi la coerenza? No, ma d'accordo, ma ci stanno raccontando vari interlocutori che in realtà ci sarebbe una cordone. Sì, la Berlusconi ce l'ha sempre raccontata, quindi per come ce l'ha sempre raccontata ci sta anche che Verdini, ma semmai il problema è dall'altra parte. Scusa, dall'altra parte in che senso? Quale? La sinistra quale per tanti parte? Anni quando Berlusconi imbarcava che era sotto di maggioranza, tromboneggiava. Ma infatti la sparava. Sinistra bersaniana si arrabbia, dice scusate anche ma quello è un gioco delle parti governo? Perché tanto poi l'accettano e reggono e vanno avanti, dai su, non diciamo sciocchezze. Come sempre la politica italiana è: se lo fai tu eresia, se lo faccio io va ortodossia, bene. Questa è la politica italiana. Il dato di fatto è che il giorno dopo aver appoggiato le riforme, i verdiniani si ritrovano con 3 vicepresidenze ti credo, perché di commissione. Queste promesse il PD le paga, mica è Banca Etruria, si pagano in pochi minuti le promesse. Cash, tra l'altro. Ma ragazzi, ma per 3 strapuntinini, neanche una presidenza, vicepresidenza. Per il momento, tu devi non dimenticare che c'è una roba che si chiama ma listone unico e posti garantiti per la rielezione. Si punta al 2018. Senti qua Verdini, 2 giorni fa Verdini disse questo. Negli ultimi mesi al Senato i lavori vanno avanti perché il gruppo di Ala ne garantisce il numero legale, perché sulle riforme, vedi che chiedeva, al di là dei numeri risicati o no. Grazie a noi. La mia opinione è avanti, no? Frizzi e Lazzi, da destra a sinistra contro Verdini. Verdini è stato puntuale come un treno svizzero, al momento giusto, numeri giusti e all'incasso. Quindi, però a me colpisce che ci sia la lettura perché dietro c'è Berlusconi, cioè la finta lite Berlusconi. Io rompo col patto del Nazareno pubblicamente, mentre tu Verdini vai avanti. Berlusconi vai come avanti. Sempre da retta a chi, agli estremisti che gli dicono che ha sbagliato Nazareno, dice adesso la penso come voi. contemporaneamente. Cioè adesso la penso come te, oh Dennis caro, di qua. Dai, insomma, comunque chiamateci su questo, parliamo un po' di politica per concludere la settimana. Però guarda che anche re, ma mi dispiace, anche il signor Presidente del Consiglio non è da meno, cioè, cioè, presente così che oggi fa scrivere a Maria Teresa Meli, la sua penna d'oro preferita, che ieri ha salvato l'Italia con una serie di colpi giornalistici, che il suo Sensi, l'ispiratore della linea, chiama le Fireside Chats, cioè quelle di Franklin Delano Roosevelt. Sì, è vero, è vero. Siamo alla follia. Oggi sul Corriere c'è scritto che queste interviste che Renzi fa, queste follia, operazioni mediatiche, sono cos'è, come i caminetti, caminetti di Franklin Delano Roosevelt, con cui Franklin Delano Roosevelt rimise in piedi gli Stati Uniti piegata alla crisi del 29. Cioè non abbiamo i limiti dei paragoni. E lui va ieri sera in televisione a dire comprate titolo MPS, perché MPS è una banca risanata, una banca che ha bruciato 4 aumenti di capitale e ha un terzo del suo totale del portafoglio crediti deteriorato, è una banca risanata. È lo storytelling. Non so, era il segretario del PD che parlava. Quello si scopre oggi col pubblico ministero di Arezzo, che avevamo visto, ma no, aveva solo l'incarico da Palazzo Chigi, che in realtà ha prosciolto negli anni il papà della Boschi. Non si capisce come abbia fatto per un'accusa. No, no, più che altro l'ha archiviato. Più che altro quando il CSM gli ha chiesto: ma lei aveva avuto mai a che fare con il papà della Boschi, al procuratore capo d'Arezzo? Ha detto, no, non lo conoscevo. Non ho mai avuto a che fare con lui. L'ha archiviato per una dazione di 250.000 euro su un affare immobiliare. L'ha archiviato. Quindi insomma. No. Insomma, e infatti il CSM ora ha riaperto fortuna, il fascicolo e addirittura sul Corriere si parla di possibile incompatibilità ambientale, potrebbe essere spostato il procuratore di Arezzo. Insomma, diciamo che polemiche i colleghi magistrati di questo Rossi che avevano visto l'apertura del fascicolo, tutti muti, cioè vedi che c'è un problema ambientale, fare interviste pubbliche. Ma certo, dovremmo segnalare, ma come sarebbe a dire? Ma ti pare giusto o possibile che una vicenda di tale delicatezza si metta al CSM e si rimetta lo stesso PM che ha già fatto un favore? No, ma infatti bene che sia venuto fuori. Meno bene, male che è venuto fuori, ma che questo descrive, di ha fatto questo descrive la convergenza di fattori ambientali volti a tenere le cose di Arezzo sotto silenzio. E io non faccio la differenza perché questo è il PD o la destra ad un tempo, no, non mi interessa, no. Dico che però i metodi sono gli stessi. Però a me ha colpito in tutto questo Alfano, perché Alfano adesso con Verdini che avanza fa un'intervista al Corriere. Mi immagino proprio che ha chiamato lui il Corriere, ho bisogno di un'intervista di una pagina, e dice: senza di noi non ci sarebbe questo esecutivo, questa legislatura, senza di noi non ci sarebbero le riforme. Insomma è un Alfano che deve farsi sentire. Dice, ma adesso arriva Verdini che sta tutto in piedi grazie a lui così. E anche lui iscritto al partito, ricordati degli amici, ecco, per così dire. È chiaro, tutti. Sentiamo Gianluca, ci chiama da Lucca. Gianluca, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno Oscar. Eccoci. Complimenti per la trasmissione, vi ascolto tutte le mattine. Benissimo. Io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso delle riforme che sono state votate l'altro giorno. Ecco, io dico che quando sarà il momento del referendum, io lo dico proprio esplicitamente, io non lo voto quel referendum lì, perché le riforme che vogliono i cittadini non sono quelle lì del palazzo. L'ha dimostrato anche ieri sera, l'altro giorno, quando c'è stata appunto la votazione, che il governo Renzi si dovrebbe essere già dimesso, perché gli hanno fatto conti, non c'è la maggioranza. Beh, c'è la maggioranza con Verdini, con Verdini. Sì, ma Verdini, Verdini fino all'altro giorno era all'opposizione, nemici acerrimi. Ora, perché gli fa comodo Renzi, ha votato le riforme, gli hanno già dato subito il contentino delle vicepresidenze. Ieri sera ha guardato porta a porta, Renzi ha minimizzato questa cosa qui, sì. Ma di fatto lui non ha la maggioranza. Vabbè, insomma, comunque, è il punto. Anche se come dicono che le maggioranze devono essere il più ampie possibile per fare le riforme costituzionali, ma il cittadino, quella riforma che ha fatto Renzi, non ha capito niente. Vabbè, diciamo, sono niente. Due cose diverse, Gianluca. Lei è contro la riforma e questa è una posizione legittima che esprimerà nel referendum. E poi c'è la questione politica. Però, dire che... una cosa sull'altra. Così Flavio dire. Invece ci chiama da Roma. Flavio? Ah, buongiorno, ovviamente complimenti per la trasmissione. Io sono laureato in scienze politiche, ho fatto una tesi sulla Costituzione. Dico che questa riforma è una porcata, tenuto conto anche del fatto, me la sono letta, non è che non me la sia letta, tenuto anche conto del fatto che non si possono fare le riforme costituzionali in questa maniera, voglio dire, perché non è possibile andare a raccattare voti per farla passare. Cioè, io ricordo, mi hanno sempre, voglio dire, impartito questa lezioncina in democrazia, soprattutto quando si parlava di revisione della Costituzione. Per farla passare senza referendum, quorum in Parlamento dei due terzi. Vabbè, ma e, qui okay. E qui ci sarà il referendum. Okay, perfetto. E qui ci sarà il referendum. Faccio un appello a Gianluca, Gianluca Di Lucca, giusto? Sì, quello sì, che ha parlato prima di me. Se proprio non ti piace, valla a votare, e vota ovvero no. Vai e vota. No, e no, ma non andare a non votarla, no, perché ma il certo. Problema è che poi ci sta pure il problema del quorum, sì, del 50% sì, certo, dei certo. Votanti, sì. non dei possibili papabili sì. Partecipanti al volo. Sì, non è una, non è un referendum abrogativo, è chiaro. Esatto, no, quindi attenzione a non andarla a votare. Ma d'accordo, ma ci sarà tempo per parlare da qui a ottobre, no, di questa questione. Però cioè, no, però io dico una cosa, attenzione su questo punto, non c'è, per i referendum confermativi non c'è il quorum. No, no, ma è chiaro, infatti quindi Flavio dice non stare a casa e dire non andare a votare, no, vai a votare no, però su questo ci siamo portati un po' avanti, a ottobre no. Ci sarà questa battaglia. Dunque, per il momento il dato politico è che al PD va bene quello che loro criticavano a Berlusconi, questo è insomma, la sostanza sì, però della fiera. Su una cosa, cioè, non sono d'accordo con Flavio quando dice le riforme non si fanno così, ma cioè, si fanno, c'è un Parlamento che ha votato, poi stiamo a discutere come, con che alleanze, e ci sarà un referendum confermativo su cui gli italiani si esprimeranno, cioè siamo nell'ambito della democrazia, esatto. non è che c'è un colpo di Stato. Certo, beh, su come si fanno però le norme, piccola riflessione al volo, ieri due segnali. La Corte Costituzionale boccia il decreto sblocca Italia, quello da cui nascono i referendum sulle trivelle, e dice no, caro governo, tu non potevi avvocarti i poteri sull'energia prima di aver cambiato la Costituzione. Quindi tutta questa roba delle trivelle, scopriamo che prima di parlare di energia comunque il governo non poteva farlo. Oggi la stampa, il grande Giuseppe Salvaggiulo, che è uno che dice di vecchie esperienze, dice sì, andiamo sempre a vedere come funziona la riforma delle 48 ore del licenziamento della Madia, siccome lascia in vigore i vecchi tempi del contenzioso disciplinare della riforma del 2009, che lasciano per esempio 20 giorni soli, ma 20 giorni pieni al lavoratore per poter contestare, è inapplicabile. Le famose 48 ore della Madia non risolveranno nulla, perché i 30 giorni entro i quali deve essere confermato il licenziamento non sono compatibili con la norma attuale. O cambiano le norme, oppure il grande annuncio del governo non funziona. Non sarebbero le prime norme in Italia fatte che producono ma però allora non le starnazzassero pubblicitariamente. A proposito di norme, ieri doveva essere il giorno dell'approvazione definitiva dell'omicidio stradale e invece è saltato tutto. Vogliamo salutare Stefano Guarnieri, che è già stato in passato nostro ospite, padre di Lorenzo, ragazzo di 17 anni ucciso da un automobilista ubriaco. Buongiorno, signor Guarnieri. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti voi. Tra l'altro io voglio ricordare anche il sito, lorenzoguarnieri.com, è il sito attraverso il quale le porta avanti. Lei è uno dei promotori di questa legge, cioè è uno dei fautori a dire questa legge ci vuole. Guardi che qui Oscar Giannino è sempre stato invece contrario sul punto, sulla legge in sé. Però intanto veniamo alla questione dell'amarezza di ieri. Immagino che ieri eravate già pronti a dire c'è la legge, invece no. Senza dubbio è stata una grande amarezza per noi familiari delle vittime, innanzitutto per il modo, perché insomma per un'ora e mezza abbiamo sentito parlare di tutele dei colpevoli e non abbiamo mai sentito parlare di vittime. Questo è un tema di non porre mai la vittima al centro, che ovviamente ci ferisce, e in più ovviamente l'esultanza finale uso stadio, che insomma su temi come questi forse un pochino più sobri ci avrebbe fatto piacere. Il punto su cui la politica si è spaccata e non è passato è la modifica della norma che prevedeva l'obbligo dell'arresto per l'automobilista, esatto, che si ferma a soccorrere la vittima, perché chi non voleva questa norma voleva che almeno la persona che si ferma a soccorrere la vittima non venga arrestata. Almeno lei è d'accordo su questo? Che non ma venga... guardi, c'è stata molta confusione su questo, perché poi in realtà la legge attuale già prevedeva che in caso di lesione, cioè non in caso di morte, l'arresto fosse facoltativo, non obbligatorio. In realtà c'è stata una discussione sul niente, perché quello che alla fine l'emendamento approva è praticamente che diciamo si ritarderà per permettere a un ubriaco di soccorrere un morto che ha ucciso lui. Questo è quello questo che succederà, perché praticamente insomma l'arresto obbligatorio vale solo se la persona muore. Però Oscar, perché non c'è nessun problema di perché sei contro a questa legge? Prima ve l'hai spiegato. Io vorrei spiegare, perché come sempre ho preso una valanga di insulti su questo, perché essere garantista e contro la proliferazione delle fattispecie del codice penale è una questione che non c'entra con le vicende di volta in volta dolorosissime. Cioè, è molto semplice, se uno va a vedere gli aggravamenti di pena previsti per questa particolare fattispecie, è evidente, salta agli occhi anche se non sei un esperto di diritto penale, che stiamo applicando, tentando di introdurre una fattispecie, con delle pene da delitto doloso per delitti colposi. Allora, questa roba qua per me è una questione di principio di civiltà. E poi lo dico con totale rispetto per chi ha avuto vittime, per i familiari, gli amici. Però guardate che la politica che vi insegue ciascuna di coloro che hanno avuto un ucciso per colpa e dice adesso facciamo eccetera eccetera, la politica che ieri vi ha messo in tribuna, perdoni, il Presidente del Consiglio che richiamava incessantemente a voi eccetera eccetera, una norma non si fa per, lo dico con rispetto, spero che non mi equivochi, guardi, ecco, si fa se si ha la profonda convinzione che sia organica all'interno di un ordinamento, altrimenti questo inseguire gli applausi e i fischi a me non piace. Però, poi io mi rendo conto che per chi ieri ha seguito la vicenda ha contato la giornata, è chiaro. E voglio dire, come si vede anche dall'intervista oggi dall'ex segretario giustizia del PD Bersani, qua c'è anche una vendetta per Verdini probabilmente di una parte del PD, quindi non c'entrano nulla con il merito, quindi io per primo lo riconosco. Diciamo che ovviamente insomma le opinioni sono rispettabili, la rispetto l'accetto con grande rispetto. Noi crediamo che manchi un elemento di proporzionalità nella legge attuale, perché comunque diciamo chi ha ucciso, chi uccide qualcuno sotto l'effetto di alcol e droga attualmente ha la stessa pena di come se rubasse il portafoglio in un autobus, anzi in quel caso lì viene arrestato. Allora questo concetto di proporzionalità di pene non c'è attualmente nel nostro codice penale. E poi anche lei, Giannino, che ovviamente sempre parla di guarda cosa fanno fuori, in Inghilterra questa fattispecie di reato, pur in common law, è invece determinata nel Road Act, che è dal 1988, perché stiamo affrontando un fenomeno di un'elevata gravità sociale, cioè stiamo parlando di persone. E quindi credo che ovviamente insomma si può discutere su tutto questo, però assolutamente la normativa attuale è inadeguata, non dà nessuna pena ed è inadeguata. No, quindi, non dà nessuna pena, poi io per esempio, ecco questa, non dà nessuna pena, mi perdoni, la classica rappresentazione che dice in Italia non c'è una pena per l'omicidio colposo, c'è. E ci sono anche tutte le aggravanti, quindi poi spetta al giudice applicare. Lei dice no, io voglio una codificazione. Se mi cita paesi in cui il problema dell'alcolismo di massa esiste storicamente, mentre da noi il fenomeno di sabato sera c'è dagli anni 80-90, prima non c'era storicamente, questa è la risposta per cui non c'è nel nostro codice penale. Quindi io accetto il confronto. E quello che non mi piace di ieri è che secondo me ha pesato nel voto una cosa che col merito del reato non c'entra niente. Cioè questo, che ci sono state beghe politiche questo e per questo lo dico apertamente. Per concludere, Guarnieri, cioè l'effetto di vedere che probabilmente beghe politiche interne, adesso qua si discuteva i verdiniani o non i verdiniani, hanno inciso su una norma che piaccia o no, è comunque una norma che incide sul vivere comune, certo, quotidiano. E che ha bisogno di essere discussa a prescindere da Verdini o non Verdini. Che effetto, le ha fatto? Ma è come sempre, siamo indignati perché non si rispettano, non si mettono le vittime al centro. Vede, riprendendo l'ambito anglosassone, noi ad esempio non abbiamo nessun diritto in tribunale di esprimere il nostro sentire, mentre nel tribunale inglese c'è il personal statement, cioè la persona, certo, la vittima, ha diritto di parlare. E questo nel nostro ordinamento purtroppo noi siamo trasparenti, quindi è come se non esistessimo e questo ovviamente ci fa molto dolore. Guardi, noi tanto in bocca al lupo come sempre e la ringraziamo Stefano questo Guarnieri. Questo il nostro ordinamento in cui c'è solo lo Stato che fa le accuse e i rilievi, quello invece come lo è la gente comune, questa è la differenza. Il punto però principale, come ha detto Oscar, è che fa male, dal punto di vista vedere che questioni politiche di come le chiama Alfano sul Corriere, di composizioni e ricomposizioni, abbiano inciso su una norma che voglio dire ai familiari delle vittime non gliene frega niente di quello che sono i movimenti politici. Non si può che essere d'accordo su questo, è una questione di civiltà. Comunque, dopo la pubblicità, qualche minuto siamo qui ancora. Chiamateci 800 24 0024. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Sono le 8.41, eccoci qua, sono le 8.41. Stavi leggendo una roba su Berlusconi. Che no, ti hai... a proposito, ma come la pensa Berlusconi su Berdini? Chiedendo agli nostri ascoltatori, ma secondo voi è d'accordo e recita che è contro, mentre invece poi benedice chi è a favore e salva il governo oppure no? Allora, oggi c'è un giornale che secondo me dà questa interpretazione fantastica. Stiamo parlando dell'Unione Civili, del fatto che Berlusconi, con le orecchie tirate dalla Pascal, sì, che gli ha detto liberale saresti, ipocrita. Esatto, invece si è schierato con coloro in Forza Italia che sono sulla posizione dei vescovi. No, non deve passare mai la legge. Invece ci informa un articolo informatissimo Italia Oggi, in realtà il Cavaliere è sulle posizioni della Cirinnà, cioè è favorevole, cioè è favorevole pro Unione Civile, anche se la maggioranza del suo gruppo parlamentare è di parere contrario, di cui la libertà di coscienza. Però il Cavaliere ha detto a quelli del gruppo con cui non è d'accordo, perché la pensa come la Pascal, sì siate duri e intransigenti, bisogna farla pagare ai vescovi per le strigliate sul caso Ruby. Questa è la politica italiana di Berlusconi. Allora, ci chiama Francesco da Modena. Buongiorno Francesco. Buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Eccoci. Volevo fare una piccola considerazione. Noi ci sciacquiamo sempre la bocca sui referendum, cioè quando c'è qualcosa che non... facciamo un referendum. Premesso che secondo me ne abbiamo fatti una valanga assolutamente inutili. È premesso che alcuni di quelli utili la politica ha fatto finta di non vedere i risultati. Esatto. Allora, a questo punto, siccome per me l'Italia non ha una democrazia compiuta, ma siamo in una specie di sorta di pseudo-dittatura, cosa servono i referendum? Ma questo è un referendum, questo però non è un referendum abrogativo, come è tanti. È un confermativo. Esatto. Ma chi va a votarlo? I cittadini italiani dovrebbero, spero che da qui a ottobre ci sarà e ci saranno campagne di informazione pro o contro. Renzi ha detto che andrà casa a casa, perché ha detto che al di là della riforma della Costituzione, se lui perde va a casa. Che seguono i partiti. Beh, ma che sia un referendum importante, su questo dobbiamo essere tutti d'accordo, ragazzi, ma si cambia la Costituzione, cioè voglio dire, bicameralismo perfetto. Cioè, potrà interessare ai cittadini, se no, se ai cittadini non frega niente e non vanno a votare, non frega niente di come va il paese. Neanche nelle sue istituzioni. E vabbè, allora... cioè, i cittadini non credo che in questo momento freghi molto di quello che fanno a Roma. Va bene, ma non è che, cioè, non è che lo fanno solo a Roma se cambia la Costituzione, cioè se cambia il Senato, piaccia o no, ripeto, sarà una cosa importante? Non lo so, oppure è uguale. Se a uno non gliene frega, vabbè, allora non gliene frega niente di niente. Che dobbiamo... Abbiamo mesi per parlare dei referendum da questo punto di vista. Esatto. Noi qualche giorno fa, se ti ricordi Oscar, abbiamo ospitato il presidente di Riscossione Sicilia, tu l'hai avuto anche nel tuo programma pomeridiano, Fiume Freddo, colui che ha detto ai politici non arrivavano le cartelle. Prima di lui non arrivavano le non cartelle. Arrivavano le cartelle. Quindi, io le ho mandate. Oltre due terzi dei 90 parlamentari, come si chiamano loro, della Sfera Regionale Siciliana, avevano signore pendenze fiscali, perché tanto che bisogna c'era di pagarla, che tanto però adesso hanno tutti ripianato, no, perché lui ha detto mandiamo i pignoramenti, e a quel punto di fronte ai pignoramenti in regola. Esatto. Però Fiume Freddo ci ha anche rivelato che l'Assemblea regionale siciliana, cioè il Parlamento siciliano, ha dato mandato a un legale di querelarlo. Il legale, l'avvocato, è l'avvocato Enrico Sanseverino, che è con noi. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei, buongiorno anche a Oscar Giannino. Allora, il consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale ha dato mandato all'unanimità per presentare querela nei confronti di Fiume Freddo. Querela in base a che ipotesi di reato? L'ipotesi di reato che è stata ravvisata è quella di diffamazione doppiamente aggravata per l'uso del mezzo della stampa e perché è rivolta ad un corpo politico. Corpo politico? D'altra parte le affermazioni che erano state fatte dall'avvocato Fiume Freddo, quella di definire genericamente l'Assemblea regionale come un covo di pirati, come un covo di malviventi sotto mentite spoglie di uomini delle istituzioni, sono affermazioni estremamente gravi, per cui l'intero Consiglio di Presidenza ha dato mandato al Presidente dell'ARS e quindi a me come consulente per gli affari legali del presidente dell'ARS di presentare questa querela. È stata presentata? Sì, è stata presentata direttamente nelle mani del procuratore della Repubblica di Palermo. Avvocato Sanseverino, ovviamente lei è l'avvocato di parte, quindi non le chiedo un giudizio sull'istanza che le è stata chiesta di presentare, le chiedo un giudizio invece da uomo di legge. Lei come cittadino e contribuente siciliano, nell'apprendere che i due terzi dei membri dell'Assemblea regionale siciliana, poiché tanto sapevano di non contare sull'esecutività dei titoli tributari e quindi in realtà nessuno gliela andava a chiedere di pagare le tasse e quindi non le pagavano, oltre i due terzi, da cittadino e contribuente, pensa che fosse giusto quell'andazzo? Ma guardi, io le voglio dire una cosa, perché su questa storia poi sono state dette anche tante cose. C'è stata un'ulteriore intervista dell'avvocato Fiumefreddo e parlo questa volta da cittadino così come mi viene chiesto. Alla presidenza dell'ARS erano pervenute fino ad ora soltanto 5 richieste di pignoramento presso terzi degli emolumenti di deputati nei confronti soltanto di 5 deputati. 5 deputati. 5 deputati soltanto, e gli uffici dell'ARS hanno provveduto ovviamente sulla scorta di quelle che erano le azioni che erano state promosse da Riscossione Sicilia e sulla scorta di quelli che erano provvedimenti giudiziari. Quindi queste erano le uniche famose, tra virgolette, carte che erano pervenute alla presidenza dell'ARS. Quindi i due terzi dice sono solo 5. Però se lo dice il presidente Fiumefreddo. Hanno pubblicato la lista con gli importi di ciascuno. Esatto. È stato pure pubblicato un elenco. Sarebbe interessante sapere quando queste cartelle sono state notificate, quando sono stati minacciati gli atti di pignoramento, perché non sono state avviate le più opportune azioni per il recupero di queste somme. Sui tempi credo che non sia stata mai fatta una domanda all'avvocato Fiumefreddo, chi e quando ha notificato queste cartelle. È stato pubblicato un elenco di deputati morosi, così come tantissima altra gente che in questo momento si trova anche in difficoltà economiche e per cui non riesce a pagare le tasse. Ma avvocato, quando lei ha visto questo elenco, la domanda è questa: che prova? Cioè, Oscar Giannino chiede, cioè, quando lei vede che c'è questo elenco, ci sono tante persone in difficoltà, ma un deputato guadagna 13.000 euro al mese. Ma da quello che capisco io, l'avvocato Sanseverino dice che Fiumefreddo si fa bello perché ci ha dato l'elenco senza spiegarci quali erano stati i tempi. Non dico che sia stato l'avvocato Fiumefreddo, perché ha avviato un'indagine interna per scoprire la talpa che ha fornito questo elenco ad un quotidiano siciliano, quindi escludo l'ipotesi che possa essere stato l'avvocato Fiumefreddo stesso. Certo è però che questo elenco è stato reso pubblico da un quotidiano siciliano e non dovrebbe essere una cosa buona. Esatto. Non dovrebbe essere una cosa buona. Neanche Equitalia faccia questo tipo di killeraggio, neanche Equitalia pubblica i nomi dei soggetti che sono morosi per mancato pagamento di tasse, ma dico a prescindere da questo, si tratta avvocato, scusi, non glielo devo ricordare a lei perché c'è un precedente, no? Si ricorda quando Vincenzo Visco, appena diventato ministro, pensando di attivare il grande controllo degli italiani ciascuno su se stessi, diede mandato di rendere note le liste dei contribuenti, scoppiò un enorme casino noi stessi le pubblicammo tutti per pagine intere. Detto questo, in capo a pochi giorni esigenze di tutela della privacy dei cittadini comuni naturalmente fecero fare una colossale retromarcia e figuraccia allo Stato. Detto questo, qui non stiamo parlando del diritto alla privacy di cittadini comuni, ma stiamo parlando di personaggi pubblici e, come sa, avvocato, nel nostro ordinamento il diritto alla privacy dei personaggi pubblici è molto attenuato rispetto a quello di chi non è uomo pubblico, e personaggi pubblici eletti ad assemblee regionali. Quindi in questo caso lo stato dei versamenti o dei non pagamenti tributari non è come per un cittadino qualunque il diritto alla privacy. Io non so neanche quando questi debiti da parte di questi deputati si siano formati. Potrebbe anche darsi il caso che si siano formati quando erano soltanto dei cittadini comuni e prima di diventare uomini pubblici. Vabbè, al di là di quando sono formati, non crede che se dei deputati del Parlamento siciliano siano morosi col fisco, i cittadini lo debbano sapere? Cioè, come proprio segno di trasparenza. Continuo a ritenere che ci sia un'aperta violazione della privacy, sia che si tratta di cittadino comune, sia che si tratta di cittadino qualificato. Non credo che lo status di deputato possa consentire lo stesso di affievolire quel diritto che ciascuno di noi di cui però la, di la diffamazione gode. È perché come sono le definizioni che ha dato Fiume Freddo, ma dove? In qualche intervista? Covo di pirati, ha detto. Covo di pirati, pirati e malviventi sotto mentite spoglie di uomini delle istituzioni. E credo che da parte di un presidente e di una partecipata regionale siano delle affermazioni non soltanto gravi, ma siano delle affermazioni dal contenuto palesemente diffamatorio. Io capisco una critica politica e ne sono state fatte soprattutto nei confronti perché, di quel voto. Perché l'assemblea a quel punto gli ha negato il finanziamento. Era magari arrabbiata perché l'assemblea regionale gli ha negato un finanziamento alla società che rischia di fallire. Anche il presidente della regione ha criticato il voto d'aula, ma lo ha criticato in termini politici, così come competeva al presidente della regione. Sotto il profilo del fallimento di Riscossione Sicilia, dopo pochi giorni è apparsa la notizia che Riscossione Sicilia non riesce a recuperare i propri crediti, ma ripeto, queste sono questioni che esulano da quello che era il mio mandato. Senta, avvocato, ma quando abbiamo sentito di diffamazione doppiamente aggravata per un corpo politico, se ci permette la battuta, ci è venuto in mente il famoso e celebre Totò. Mi faccia il piacere se lo accetta come... dai, su, un po' di trasparenza ci vuole. Per carità, la trasparenza sicuramente, ma definire atti di pirateria un voto assembleare. Noi ci freggiamo del titolo di paese democratico. Un paese è un Parlamento, quello siciliano, il quale vota liberamente, e improvvisamente questo voto diventa atto di pirateria. E non ci possiamo lamentare dell'antipolitica quando certamente poi tacciamo l'intero Parlamento. Perché avvocato, il problema è qui ci si divide, perché c'è un criterio formale, quello che ha detto lei, così si eccita antipolitica, c'è un criterio sostanziale, noi abbiamo a che fare con gli ascoltatori, sa? Siamo una parte bassa della piramide sociale, e lì si capisce che invece l'antipolitica è alimentata dal fatto che i politici le tasse possono non pagarle, quello alimenta l'antipolitica, perché la gente dice, oltretutto nella lista non le sarà sfuggito, avvocato, che c'è un parlamentare di tutti i gruppi parlamentari, perché di fronte all'impunità fiscale tutti diventavano uguali, e questo la gente lì dice, tutti uguali, tutti rubano, lo Stato con loro, a loro non chiede le tasse quando c'è il debito fiscale. Esatto. Ed è questo che alimenta poi l'antipolitica. Comunque, avvocato Sanseverino, la ringraziamo, Enrico Sanseverino, ci tenga aggiornato su questa diffamazione al corpo politico. Aggravata perché al corpo politico. Certo, il corpo di Maria Elena Boschi è il corpo politico. Vabbè. È un corpo politico. Va bene. Comunque, il papà, io continuo a dirlo: il papà di Maria Elena Boschi, salvato da un magistrato per accuse gravissime. Io voglio, non so se è chiaro, il fascicolo era relativo a turbativa d'asta, riciclaggio, estorsione. E quel magistrato ha detto che lui non lo conosceva al CSM. Questa roba fosse accaduta a un ministro delle riforme del centrodestra, i giornali erano esplosi oggi, caro Alessandro. Abbiamo il dovere di dirlo. Va bene, ci troviamo lunedì.